Salva Danaio di Deborah Rosciani. Bentornati a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo del mattone. Gira e rigira, il risparmiatore italiano torna sempre lì. In una situazione che vede una discesa costante senza freni della borsa, a parte quello che è successo nelle ultime due giornate, ma non lasciamoci abbagliare da questi rally, da queste giornate, lo sappiamo, c'è ancora massima incertezza sul mercato azionario. E in una situazione che vede anche i rendimenti dei titoli di Stato ridotti al lumicino, oggi per il BOT a tre mesi abbiamo un nuovo picco minimo, siamo all'1% lordo e quindi insomma anche per il reddito fisso immaginate che prospettiva abbiamo. Ci si comincia a chiedere se l'attenzione degli investitori tornerà a spostarsi verso la casa, verso il settore immobiliare, piuttosto che tenere completamente fermo il proprio risparmio, perché per quello che riguarda il mercato italiano va posto l'accento su una situazione particolare. A parte gli Stati Uniti, che stanno registrando una discesa dei prezzi enorme, nell'eurozona le economie interessate all'esplosione della bolla immobiliare sono la Spagna, il Regno Unito, in parte anche la Francia. In Italia il calo dei prezzi delle case è iniziato da diversi mesi, così come c'è un netto calo delle compravendite, ma questa riduzione, almeno per quello che posso pensarne io, poi sentiremo i nostri ospiti, non ha il tenore dirompente di altri paesi, però vale la pena dare un'occhiata alla tendenza che si è messa in atto per capire se sarà un anno particolare per il ciclo immobiliare italiano, che appunto, come dicevo, viaggia secondo dinamiche particolari rispetto al resto d'Europa. Comunque gli operatori del settore sono sicuramente preoccupati perché, come dicevo, le compravendite sono in discesa e bisogna capire quanto questo si tradurrà in un'ulteriore discesa dei prezzi, che già è piuttosto evidente in qualche area del nostro paese. E allora oggi cercheremo proprio di esplorare non solo la tendenza generale, ma anche quelle che sono le aree del paese che stanno dando i segnali più interessanti in senso positivo e in senso negativo. Chi ci aiuterà stamattina? Una accoppiata di ospiti che è spesso ospite di Salva Danaio: Alessandro Ghisolfi, responsabile dell'ufficio studi del network UBH. Bentornato. Grazie mille, buongiorno a tutti. E bentornato anche a Guido Lodigiani, responsabile delle ricerche di mercato del gruppo Gabetti. Lodigiani, bentornato anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Il numero verde per gli interventi degli ascoltatori, che vedo già si stanno prenotando, quindi lo conoscono bene, è l'800240024. I messaggi invece li potete inviare al 349-238-6666. Siccome in questo periodo non facciamo altro che fare paragoni tra come vanno gli investimenti di ogni tipo, come va la borsa rispetto al titolo di Stato, rispetto proprio al mattone, diamo allora un'occhiata anche alla borsa questa mattina. Ieri è stata una giornata di gloria per gli indici internazionali, una seduta che non vedevano da diversi mesi, addirittura per Wall Street è stata la miglior seduta del 2009. Stamattina l'Europa era partita un po' così, con l'idea di prendere guadagno, di prendere beneficio dal rally di ieri, e poi a metà seduta ci ha ripensato e così insomma gli indici del vecchio continente si sono detti: ma sì, dai, andiamo avanti anche oggi e riprendiamo un po' di terreno, di tutto quel terreno che abbiamo perso nei mesi passati. E così Parigi guadagna un punto, Francoforte guadagna l'1,34, Londra un po' più contenuta, più prudente, guadagna lo 0,11%, Milano più 1,15% in questo momento sull'S&P MIB. Il mercato italiano stamattina andava ancora meglio grazie alla riscossa di nuovo dei titoli bancari, adesso ridimensiona la sua corsa anche Milano, è arrivata a guadagnare appunto 2,5 punti, però abbiamo ancora il segno più e teniamocelo caro fino a quando lo vediamo. Banco Popolare più 20%, il gruppo, come si diceva, l'abbiamo già annunciato anche ieri mattina, farà ricorso ai Tremonti Bond, ma sono così in procinto di farlo, almeno secondo le indicazioni del Sole 24 Ore di questa mattina. Anche Unicredit e Banca Intesa, su questa prospettiva i gruppi bancari stamattina stanno tornando a crescere molto. Per il Banco Popolare più 20%, per Monte dei Paschi più 8,64%, per la Popolare di Milano più 6,76%, per Unicredit più 6,33%, Mediobanca più 5,82%. Oggi abbiamo un recupero anche di un altro titolo molto bastonato nelle ultime settimane, Seat Pagine Gialle più 7%. Chi è in difficoltà invece è Finmeccanica, che perde 4,5 punti. Saipem, bocciata da una casa di investimento, perde 4 punti, Mediaset ne perde 2, Terna ne perde 2, Snam Rete Gas perde l'1,89%. Questo è il quadro fra migliori e peggiori titoli, mentre l'euro sul dollaro quota 1,27,14. Possiamo lasciare la borsa e adesso andiamo al mattone. Il 2009 sarà l'anno nero delle borse, ma non solo. Sul fronte del mercato immobiliare, tradizionale rifugio per gli investitori delusi dai mercati finanziari, la situazione non è certo migliore. Il calo delle compravendite e il conseguente allungamento dei tempi di vendita, già registrato negli ultimi mesi del 2008, è stato confermato dai primi dati del nuovo anno e, secondo gli esperti del settore, non ci sarebbero segnali di ripresa all'orizzonte. Le compravendite, che lo scorso anno sono scese a 684.000 unità contro le 851.000 del 2006, secondo dati Nomisma, continueranno a calare e la flessione degli scambi non tarderà a riflettersi anche sui prezzi, che in futuro potrebbero scendere in modo più deciso, con ribassi fino al 15%. Oggi i prezzi medi al metro quadrato nelle zone residenziali delle grandi città restano ancora elevati, sopra i 7.000 euro a Roma e Milano, intorno a 5.800 euro a Firenze e comunque sopra i 3.000 a Genova, Bologna, Torino e Bari. Il mercato però si fa più selettivo e penalizza le abitazioni in periferia o da ristrutturare. Ad aggravare la situazione di una domanda già debole c'è anche la stretta nell'erogazione dei finanziamenti. Un'intera categoria di potenziali acquirenti è esclusa dal mercato perché non riesce a ottenere un mutuo. Sempre Nomisma rileva una contrazione delle somme erogate. Dal 2007 al 2008 gli importi dei mutui concessi sono scesi da 128 a 123 mila euro e del totale delle erogazioni da 63 a 56 miliardi di euro. Cresce invece la percentuale di coloro che acquistano per puro investimento. Se in tempi normali il loro numero si aggira intorno al 5%, negli ultimi mesi questi compratori, che si tengono alla larga dai mercati finanziari in burrasca e sono insoddisfatti dei rendimenti minimi dei titoli di Stato, rappresentano l'8-9% del totale. In controtendenza anche il mondo degli affitti, che recentemente si è vivacizzato dopo anni di relativo declino. 800240024, ecco il vostro numero verde per intervenire. Alessandro Ghisolfi, siamo stati un po' drastici nel definire, vabbè, abbiamo messo insomma in parallelo il mercato immobiliare con quello azionario, quindi con la borsa. Abbiamo decretato che il 2009 sarà l'anno nero per tutti i versanti. Abbiamo un po' di paura forse di questo, e non è detto che nella seconda parte dell'anno qualche segnale di ripresa, certo, si intraveda su tutti quanti i versanti. Ovviamente tutti quanti i versanti, l'auspicio è naturalmente questo, però insomma le prospettive in termini generali quali sono, almeno quelle che potete individuare dai vostri osservatori? Poi ovviamente andremo nel dettaglio magari delle singole aree geografiche. Beh, diciamo che sicuramente anche il 2009 non potremo probabilmente classificarlo come un anno positivo o molto positivo. Io credo che però già il 2008 sarà un anno particolarmente ricordato come un anno particolarmente negativo. Non dobbiamo dimenticare che per esempio già alla fine del 2007 i volumi di compravendita erano calati, anche se non di molto, del 5%. Poi quest'anno, il 2008, si è chiuso appunto con un calo circa del 17%. E se andiamo a vedere nella storia dell'andamento del mercato, è la prima volta che succede negli ultimi 25 anni che le compravendite fanno segnare un andamento negativo per due anni di seguito, quindi è un fatto abbastanza inusuale, direi quasi eccezionale. Il 2009, adesso i dati, chiaramente siamo a inizio marzo, è un po' presto, probabilmente alla fine del primo trimestre avremo una visione più chiara, però devo essere sincero, non arrivano dei dati drammatici, mm-hmm, assolutamente. Quindi è vero che c'è una domanda più debole, è vero che c'è una domanda più attendista, ma questo è tipico dei momenti in cui si capisce che il mercato è un po' più debole. Ed è verissimo che i prezzi scontano questa domanda più attendista. Mm-hmm. Quindi infatti forse il problema vero per il mercato immobiliare italiano in questo momento è che, più che in attesa di vedere i prezzi che crollino o meno, è un mercato ingessato, perché comunque forse, non so, Lodigiani se mi dà ragione, Gruppo Gabetti, c'è ancora comunque un tentativo da parte di tutta quella gran massa di venditori di tentare di collocare sul mercato il proprio immobile, l'immobile che vuole mettere in vendita, a prezzi ancora sostenuti. Quindi non lo so, è una giusta definizione mercato ingessato più che in netto calo in vista, in prospettiva? Ma direi di sì, fondamentalmente questa forbice fra domanda e offerta, che appunto come diceva Ghisolfi prima, Si vedeva che era già da un anno e mezzo comunque molto, molto divaricata. Diciamo, in questa fase è rimasto il differenziale domanda-offerta, si è semplicemente traslato leggermente verso il basso. I venditori immobiliari hanno un po' questo atteggiamento anche curioso di considerarsi forse su un altro mondo, cioè non hanno immediatamente la percezione che il settore immobiliare comunque è correlato agli altri settori, alle dinamiche creditizie, a quello che succede negli altri paesi. Quindi obiettivamente è vero che è difficile rivedere le aspettative dei venditori. C'è anche un'altra tematica: alcuni venditori, nelle motivazioni che ci portano, venditori che magari hanno proprietà importanti, dicono anche va bene, dopo aver venduto il mio immobile cosa faccio dei soldi, quindi non vedono investimenti alternativi se non paradossalmente nel mattone interessanti, quindi probabilmente il passare da una grande proprietà a delle soluzioni più piccole può essere un investimento consigliabile. Ecco, quindi c'è anche questo timore di mancanza di investimenti alternativi qualora si decidesse di dismettere la propria proprietà immobiliare. E infatti, tra l'altro, questa sua considerazione, Lodigiani, ci presta al fianco l'assist ad un'altra che volevo fare con Alessandro Ghisolfi e che tra l'altro lui esprime molto bene, e credo che tra l'altro Lodigiani sarà d'accordo. Su alcune inchieste, sono state molte che in questo periodo sono apparse su tutti i giornali e che hanno voluto proprio monitorare la tendenza del mattone. Il tema è: io sono un investitore nel settore immobiliare perché sono un investitore puro e, come diceva Lodigiani, vendo magari le mie proprietà perché voglio collocare quello che ottengo da questa vendita, il mio denaro appunto in altri asset, oppure sono un compratore, sono un investitore perché comunque devo comprare la casa della mia vita, la casa che destinerò magari ai miei figli. Quindi questo è un altro aspetto molto importante, Ghisolfi. Certo, giustissimo. Infatti si dice investitore nel senso generale, ma quando uno è una neocoppia di giovani che compra la casa in cui vivere, sì, è vero, hanno fatto un investimento importantissimo e probabilmente l'investimento più importante della loro vita, però è un investimento che non è che dia un rendimento monetario reale, ma soltanto virtuale, nel senso che comunque il capitale cresce, perché abbiamo visto che comunque in Italia il capitale investito nel mattone con il passare del tempo cresce sempre, pur magari avendo delle perdite percentuali, ma non così forti come in altri paesi. Questo è un tipo di investimento, è un investimento anche di carattere, se vogliamo, psicologico, nel senso la sicurezza di avere un tetto sopra la testa di proprietà. Ma c'è anche l'investitore puro e giustamente, come diceva anche Lodigiani, oggi chi magari è proprietario, però parliamo chiaramente di una classe sociale più alta, è proprietario di più abitazioni e decide di venderne qualcuna, oggi appunto si pone questa domanda sul come poi reinvestire, e paradossalmente, come si diceva, gira e rigira, si ritorna nel mattone, magari al mattone. Insomma, negli immobili di pregio, nel quadrilatero, esatto, della moda di Milano, zone e ambiti che mantengono ancora quotazioni elevatissime. O all'estero, perché noi abbiamo fatto recentemente uno studio su Londra, per esempio, e Londra oggi tra un 25% di perdita della sterlina più un 25-30% di perdita dei prezzi degli immobili nelle zone centrali di Londra, sto parlando di Mayfair, di Chelsea, di Knightsbridge, cioè significa oggi acquistare con un 50% di sconto rispetto soltanto a un anno fa. E infatti, è un po' come succede anche negli Stati Uniti, dove sì, la discesa dei prezzi è netta, è evidente, ma qui stiamo sempre confrontandoci con la media di Trilus. A Detroit ci si può comprare una bella villa a $15,000, perché penso proprio che le quotazioni siano a questo livello. A Washington siamo sui prezzi di un anno fa, di due anni Certamente. Fa, credo che siamo ancora sugli stessi livelli. Per cui, insomma, allora che cosa facciamo? Esploriamo un po' anche quelle che sono le tendenze, gli orientamenti dei nostri ascoltatori verso il mattone. Luigi della provincia di Bergamo, adesso l'ascoltiamo. No, quello che tra l'altro volevo concludere è che, data la differenza fra la modalità di investire nel mattone, forse magari la giovane coppia che adesso ha comprato una casa, magari l'ha comprata anche ad un prezzo alto, non che dobbiamo buttare via i nostri soldi, però non ossessioniamoci del prezzo pagato, se è la casa dei nostri sogni e se desideriamo rimanere lì per tutta la vita. Assolutamente, in ecco. Assolutamente. Luigi da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo fare una domanda. Sono padre di famiglia, ho due figli di 8 e 10 anni. E io e mia moglie, avendo visto sia il calo dei prezzi delle case dello scorso anno e già in parte anche di quest'anno, avendo anche visto che i mutui comunque sono scesi e di molto, volevo porre una domanda agli esperti. Mm-hmm. È il caso, perché noi volevamo acquistare due appartamenti per i nostri figli, di acquistarli adesso oppure attendere ancora qualche mese sperando in un eventuale calo ancora mm-hmm. del mattone e di una riduzione dei tassi dei mutui, perché vorremmo acquistarli sia in parte in contanti, certo, sia in parte con mutuo, indebitandovi naturalmente. Sì, che sarebbe poi un investimento a lunga scadenza per i nostri infatti figli. Luigi mi vuole adottare come sua terza figlia, magari non ci stiamo tanto con l'età, però io mi candido se vuole, a parte gli scherzi. Chiederò alla moglie, le farò se sapere. Mi volete in casa, Bergamo, siamo anche vicini. No, tra l'altro le faccio anche i complimenti per avere così a cuore il futuro dei suoi figli e di pensarci così presto, perché questo insomma è un altro tema molto bello che magari vorremmo anche esplorare una volta a Salvadanaio, cosa si può fare adesso, perché ha intenzione di cominciare ad accantonare qualcosa per i propri bambini in una prospettiva, e quindi ha davanti a sé una prospettiva di lunghissimo termine come quella di Luigi da Bergamo. E allora Lodigiani, comincio con lei. Due bambini, 8 e 10 anni. Luigi ovviamente comincia a guardarsi intorno in questo momento. Direi che l'occasione dei tassi forse andrebbe colta in qualche maniera, a parte gli spread sui mutui applicati dalle banche, che è un altro problema. Il tema è il prezzo delle case. Potrebbe rimandare, secondo lei, ancora di un anno, due anni questo acquisto? Luigi, ho visto che ha un'ottica di così lungo periodo, forse vale la pena guardarsi intorno anche adesso. Ma sicuramente, diciamo, l'idea è lodevole. Si può aspettare ancora, secondo me, qualche mese fino, diciamo, a dopo l'estate. Però, visto che l'ottica è veramente di lungo periodo e le idee sono chiare, si può anche puntare assolutamente su un paio di nude proprietà in un'ottica di lungo periodo, con dei mutui che sicuramente adesso sarebbero convenienti. Adesso l'ideale è un fisso, se si riesce ad ottenere con spread ridotti, quindi congelare una situazione attuale o quella che ci sarà probabilmente fra qualche mese, in cui si toccheranno proprio i minimi anche come tassi. E lo vedrei comunque un investimento molto interessante, ecco. Però insomma, visto che Luigi ha l'obiettivo di poi consegnare ai figli questi appartamenti, magari stare lì anche ad arrovellarsi il cervello, non lo so, Ghisolfi, su 10.000 euro in più o meno che di un appartamento può pagare da un anno ad un altro, non lo so se vale la pena. No, può cominciare comunque a guardarsi intorno. Sicuramente a guardarsi intorno, sì. Poi adesso, se per esempio sta parlando di Bergamo, della città in particolare, devo dire che sì, la città ha avuto un trend sicuramente positivo in questi anni. Oggi comunque sta soffrendo anche lei un po' di una riduzione, sta crescendo l'offerta, per cui il mio consiglio è cominciare a guardare un po' di cose, trovarle, e poi, come sappiamo benissimo tutti, se troviamo dei prodotti che ci piacciono. Esatto, se si trova, come dire, la casa dei propri sogni, magari la si ferma tutto, anche a costo di pagarla un po', esatto, un po' di più. Il fatto che sia un investimento fatto per i figli così piccoli li aprono poi tante prospettive, che può essere anche quella di metterli in affitto per un certo periodo e quindi ripagarsi la rata del mutuo tramite l'affitto. Può magari trovare una bella zona in una casa che però è tutta da ristrutturare e rimettere a posto, però magari, insomma, quindi Luigi, dipende molto anche, oltre che dalle esigenze sue di lungo periodo dei suoi bambini, anche dai suoi gusti personali, quindi capire anche se magari vogliono mantenersi a Bergamo o se fare un acquisto in un'altra città. Le indicazioni sono tante e non contano solo ed esclusivamente il prezzo e il livello dei tassi di interesse, ci sono tanti aspetti da considerare. Allora, stavamo anche un po' divertendoci, tra virgolette, con Alessandro Ghisolfi, leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori, perché tra tutte le cose che abbiamo detto, forse non sono ancora molte stamattina, altrettante ne diremo, su che cosa si sono interessati gli ascoltatori? Su quanto costa al metro quadro la casa a Detroit, dove c'è insomma il quartiere generale di General Motors, che sta fallendo, speriamo certo. di no, perché alla fine venga salvata la grande casa automobilistica americana. A Detroit le case stanno crollando come prezzi, però la qualità della vita lì non credo che sia come dire interessante quanto per esempio a Miami, dove invece stanno crollando proprio i prezzi. Sì, i prezzi anche lì stanno crollando, anzi diciamo che è un annetto buono che scendono, abbiamo punte di sconti, chiamiamoli così, del 70%, mediamente il 55%, ma per appartamenti nuovissimi dentro grattacieli stupendi sul mare, nella zona di Key Biscayne, piuttosto che vicino a South Beach. Ci faccia sognare che stamattina dobbiamo invece attenerci insomma ai confini domestici. Rimaniamo in Italia con Roberto dalla provincia di Firenze, che saluto e ringrazio. Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la vostra trasmissione eccezionale. Senta un po', io volevo sapere se c'è verso in qualche modo di cautelarsi o di trovare soluzioni. È un problema che sta nascendo, sì. Nel senso, io l'anno scorso ho venduto il mio appartamento a Sesto Fiorentino perché ho intenzione di trasferirmi a Forlì. Sì. Quindi siamo andati, un'agenzia ci ha seguito, abbiamo venduto la nostra casa a un signore, dopodiché noi abbiamo acquistato questo immobile a Forlì. Sì. Con un anno di tempo, cioè io consegnerò la casa adesso a giugno quando i ragazzi finiscono la scuola e quindi ci trasferiamo dopo un anno, diciamo, dal compromesso. Ora, il signore che ha comprato la casa ancora non ha venduto la sua, sì. E siamo entrati purtroppo in una condizione in certo, cui in una spirale il prezzo sta calando, ha provato a calare anche il suo prezzo ma ancora non ha venduto. Cioè, che cosa possiamo andare incontro? Se questo signore non dovesse vendere il suo immobile per un problema contingente, che cosa può accadere? E ci sarà una speranza che di qui a giugno questo mercato si svegli? O mi sembra di aver capito dai discorsi che girano che sarà un mercato sempre in calo? Sarà un mercato in calo senza punte drammatiche, Roberto, come si è verificato in altri paesi, però qua insomma ricordiamoci che il mercato immobiliare italiano cresce in maniera costante, continua, con punte anche eccezionali dal 1999, per cui sono passati 10 anni, è un rallentamento a prescindere dalle condizioni economiche internazionali, ce lo dovevamo anche aspettare. Detto questo, soluzioni pratiche ai nostri ascoltatori su un problema come questo, una situazione nella quale credo si possano ritrovare anche in molti, perché da un anno a questa parte in cui doveva concludersi questo come dire, affare immobiliare fra queste due persone, il meccanismo si è inceppato perché la seconda persona che deve vendere la sua casa per entrare in possesso dell'altra non ce la fa a metterla sul mercato. Forse è l'unica soluzione, Guido Lodigiani, mi dica un po' come la pensa, e forse un caso del genere in un'altra puntata con voi due era venuto fuori. Deve abbassare ancora le sue pretese il secondo venditore? Allargherei un attimo il discorso, nel senso che questa è una tipologia assolutamente comune, sia sul mercato diciamo dell'usato, sia anche per il nuovo, cioè tante volte si prenota, si versa anche un acconto per un nuovo immobile con l'ipotesi di vendere l'usato e non ci si riesce, e quindi poi paradossalmente ci sono problematiche anche sui costruttori, no? Questo è molto infatti diffuso in tutta Italia. Sì, qui purtroppo non ho una bacchetta magica, il consiglio, insomma, sicuramente questo proponente acquirente ha avuto, mi sembra di capire, un anno di tempo per vendere l'immobile, probabilmente l'ha proposto a un valore troppo alto e quindi deve assolutamente abbassare, rivedere. Infatti, bisognerebbe anche vedere quanti pretendenti ha fatto scappare con il prezzo che chiedeva, certo. Quindi anche lì è un segnale, Ghisolfi, lei che dice? Il punto è che se non si arrivasse a una logica conclusione, cioè della vendita di questo immobile, ci saranno delle penali da pagare. Infatti. E salta un po' tutto, questo è il problema. Però è evidente che adesso, voglio dire, se questa abitazione, a meno che non abbia delle caratteristiche tali che la definiscono invendibile, ma non credo, perché infatti credo che anche l'amico che sta telefonando abbia cercato di capire che tipo di prodotto andava a vendere questo signore, mi sento di dire che molto probabilmente, come succede veramente oggi spesso, il prezzo richiesto da questo venditore è troppo alto. No, per ma cui infatti, anche perché Roberto non è in linea diceva col mercato. Che cosa si può fare per venire incontro a questa persona? Deve fare solo lui, intervenire sul prezzo. Non credo che ci siano altri ambiti d'azione. No, altri ambiti d'azione non credo proprio che ce ne siano. È verissimo che bisogna fare molta attenzione quando, come diceva Lodigiani, voglio comprare un appartamento nuovo, non farsi da soli le valutazioni sul proprio appartamento, confrontare con il prezzo del nuovo, dire ok, ce la posso fare senza fare il mutuo, oppure mi basta fare un mutuo piuttosto piccolo, perché a volte, non sapendo esattamente come funziona il mercato proprio del proprio quartiere, della propria città, si fanno delle valutazioni come sempre sovrastimate e poi alla fine ci si trova che ballano quei 50.000 euro che non si erano calcolati. Tra l'altro, no, stavo pensando a questo ascoltatore che ha non aspettato un anno, pensava in un anno di la persona citata dall'ascoltatore che ci ha chiamato, pensava in un anno di risolvere la sua questione, di mettere in vendita tranquillamente il suo appartamento. Ma se dopo un tot di mesi vedi che niente si muove, forse è il caso che tu debba intervenire. Dopo quanti mesi, secondo lei, Ghisolfi, ci dobbiamo cominciare ad interrogare sul prezzo forse troppo elevato che chiediamo? Vedendo le tempistiche, io direi dopo un 4-5 mesi incominciare a fare dei ragionamenti. Adesso io non so se questo signore abbia fatto tutto da solo o sia stato mal seguito, però se fosse stato seguito e se è seguito da dei professionisti seri, sicuramente oggi il lavoro serio è quello di far capire a chi vende che a volte il prezzo non è... Concordo, perché poi anche lì, e qui apriremo un'altra parentesi molto interessante, ovviamente anche l'agenzia immobiliare alla quale ci si rivolge è ovvio che vuole fare il massimo prezzo possibile per avere la remunerazione più alta, ma conosco anche fior di professionisti che lottano non poco con dei venditori che non vogliono abbassare i prezzi, e lì insomma lì poi vengono anche a giudicarli in maniera poco professionale solamente perché invece fanno bene il loro lavoro. È un momento in cui i prezzi si devono ridimensionare, non dico crollare, ma comunque qualche area deve assestarsi sicuramente. 800 24 00 24 è il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi. Sentiamo chi è in attesa da un po', Roberto dalla provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno Deborah. Parma, Forlì, vedo anche da Modena che ci stanno scrivendo. Insomma, l'Emilia Romagna mi sembra molto intenso il settore immobiliare, in fermento. Roberto, eccoci. Buongiorno Deborah. Buongiorno, grazie per la trasmissione. Lei è tra l'altro anche molto simpatica. Io sono di Fidenza, Parma. Chiedevo un'informazione dei vostri esperti. È meglio investire in un appartamento, diciamo così, nuovo, o ristrutturare un vecchio, o prendere un vecchio a basso pezzo e poi ristrutturarlo? La cifra conclusiva secondo me è uguale. Tenga presente che nella nostra zona si pagano sui 2,2-2,3 al metro quadro. Sì, Roberto, una domanda gliela devo fare: questa casa è per sé o è una casa che lei poi mette, non so, in affitto, a rendimento? Sarebbe una casa per un investimento, poi eventualmente per affittarla, per prendere il momento dei prezzi bassi. E poi le dicevo un'altra cosa: come mai in questa zona, se non sono fuori tema, i terreni agricoli costano dai 40 ai 50 mila euro all'ettaro, tenendo presente che i prodotti agricoli non costano niente? Se voi sapete dare una risposta, perché di solito i terreni agricoli pianeggianti sono molto remunerati, 40-50 mila lire, Noi parliamo sempre di case, poi diciamo di altri ambiti di investimento immobiliare. Poi il terreno agricolo si può definire così, non lo so se è corretto, non ne parliamo quasi mai. Roberto, allora una bellissima domanda la sua, però guardi, ci faccio pensare un po' i miei interlocutori di questa mattina. Stavamo interrogandoci a microfoni spenti sulle varie facce di questa crisi, perché la sensazione è che comunque, forse Tremonti quando lo dice ha ragione, che le famiglie italiane tutto sommato riescono a mantenere una certa protezione dalla crisi generale, le famiglie italiane sono delle grandi risparmiatrici, quindi non so se tengano tutto il loro denaro nel materasso sul conto corrente. Di fatto c'è una marea di persone che ci sta scrivendo al 349-238-6666, vuole avere chiarimenti sulla modalità di investimento in immobili a Miami. Mannaggia a noi quando l'abbiamo detto. dolfi, perché tutti continuano a chiedere quanto costa il metro quadro, in questi grattacieli di Miami quanto costano gli appartamenti, ancora un altro sconti a Miami, ma quanto? Insomma, allora evidentemente un po' di soldi da investire ci sono, e forse, visto che là i prezzi stanno scendendo tanto, magari si vuole veramente cogliere l'occasione eccezionale. Però lasciamo Miami, ritorniamo invece a Parma, a Fidenza, dove vive il nostro amico Roberto. Guido Lodigiani, allora, l'ascoltatore aveva chiesto: io devo fare, sono un investitore puro, quello che abbiamo definito all'inizio del nostro programma, e vuole mettere a frutto questo investimento in un secondo momento, dopo l'acquisto evidentemente. Dice: ma secondo voi in una città come questa è meglio che mi rivolga al mercato del nuovo o al mercato dell'usato, quindi ristrutturo? Lei come suggerirebbe di muoversi in una scelta di questo tipo? Allora, diciamo, nell'ottica dell'ascoltatore di Roberto, l'idea può essere o di affittare, no, diceva, però in questo caso punterei su un immobile già occupato in primis, o che richieda una ristrutturazione leggera. Non quindi una ristrutturazione pesante per affittare, esatto. Oppure cambiare l'ottica, quindi acquistare, trattando molto sul prezzo, un immobile che richiede una ristrutturazione profonda, magari con l'assistenza di un architetto, un geometra, con l'idea di recuperare spazi in modo che siano modulari, che diventi più vendibile l'immobile. Penso, no, magari ingressi, corridoi, spazi come dire eccessivi e non apprezzati dal mercato odierno, e quindi guadagnare nella maggiore funzionalità del bene, oltre che sulle detrazioni e sul risparmio fiscale, a seconda poi del tipo di intervento che andrà infatti, a fare, ma io, tra, no, nell'ottica del risparmio energetico. Mi farei anche un'altra domanda, cercherei di capire, guardando alla città, qual è la zona in cui c'è una maggior richiesta proprio di affitto, Ghisolfi, non lo so se è proprio una considerazione banale la mia. No, è giustissimo, infatti quando una persona decide di comprare, investire nell'immobile per, appunto, a puro scopo reddituale, quindi affittare, l'abbiamo detto tantissime volte, è importantissimo capire bene la zona, quindi nelle grandi città o comunque nelle città dove ci sono le università. Infatti, ovviamente è importante acquistare, cioè è interessante acquistare vicino alle università perché c'è un'altissima domanda di studenti, oppure nelle zone dove ci sono anche degli ospedali oppure dei tribunali, cioè dove operano professionisti che magari vanno e vengono e quindi hanno bisogno di un punto dove passare alcuni giorni della settimana. Quindi oppure fare il ragionamento del comunque andare ad acquistare in una zona dove il capital gain è garantito più che in altre parti, quindi ovviamente è meglio il centro storico di Parma piuttosto che una periferia degradata. Queste sono un po' le domande che l'investitore in generale deve farsi quando vuole investire in un immobile. E quando ha soprattutto, come in questo momento, l'opportunità di farlo, che è già una grande fortuna. E adesso, se abbiamo tempo, Roberto, le rispondiamo anche sui terreni agricoli, però volevo sentire un operatore del settore. Marco da Brescia, benvenuto a Salvadanaio. Ehi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Il mio intervento era sostanzialmente una fotografia molto puntuale del mercato attualmente per quel che ci riguarda. Sì. E mi ha incuriosito la telefonata dell'ascoltatore prima, che diceva che lui è in vendita l'immobile da tempo, che il suo acquirente a sua volta ha difficoltà a piazzare il suo e tutte queste cose. A mio avviso l'agente immobiliare, l'intermediario, in questo caso io in prima persona, dobbiamo essere particolarmente puntuali nell'informare le controparti della situazione che attualmente porta ad avere dei rischi maggiori rispetto a qualche tempo fa. Infatti, Marco, noi tra l'altro questo aspetto l'abbiamo affrontato, adesso non voglio interromperla, voglio continuare a sentirla, ma lei fa fatica ad attivare un dialogo di questo tipo fra le parti che mette a confronto? No, non faccio fatica perché sostanzialmente pongo il problema. Le parti, nel momento in cui comincio ad avere la consapevolezza dei rischi che possono affrontare, prendono una decisione appunto consapevole, cioè voglio dire, se io oggi acquisto un immobile e a fronte di questo acquisto devo versare una caparra, ok? devono essere nelle condizioni già mentali di verificare cosa farò io fra certo. X mesi per saldare questo immobile. Lei okay? avvisa anche della possibilità, Marco, che ci potrebbe essere di abbassare anche la pretesa sul prezzo? Quando dicevo prima il compito dell'agente immobiliare, dell'intermediario, addirittura deve essere un compito preventivo, cioè la valutazione oggi dell'immobile deve essere molto molto cauta. Io per dirle ai clienti attualmente dico che le quotazioni per le quali oggi ci muoviamo e facciamo riferimento sono quelle di 2 anni fa. Cioè voglio dire, il mercato oggi nella mia zona e offre prezzi che sono quelli di 2 anni, 2 anni e mezzo. Quindi insomma lei dice non c'è stato questo ridimensionamento dei prezzi, no, che non mi sono che viene indicato, non se ne è accorto. Tutto ciò che è successo dopo, quindi l'incremento virtuale dei prezzi, ho capito, sì. In realtà ci siamo riportati a qualche anno fa. Okay. Insomma, e le parti questo lo percepiscono questo e infatti Marco io la ringrazio per la sua testimonianza. Peraltro stiamo già chiudendo, Salvadana, io non me ne ero neanche accorta, mi manca ancora 1 minuto e mezzo. In realtà quello che volevo finire di commentare con Guido Lodigiani e Alessandro Ghisolfi, abbiamo sentito testimonianze di ascoltatori da Parma, dalla Toscana, dalla Lombardia. Nel Sud Italia che cosa succede, Ghisolfi? Ma nel Sud Italia il mercato probabilmente ha meno problemi, cioè sembrerebbe da tutte queste telefonate che ci sia più vivacità. Infatti. A dire la verità, però i dati comunque sul sud, delle città del sud, a parte grandi capoluoghi, soprattutto Napoli, Palermo, che almeno secondo me stanno soffrendo particolarmente, per il resto devo dire che non c'è quest'aria negativa, per cui probabilmente ecco la maggiore vivacità oggi arriva poi nelle zone dove anche l'offerta è maggiore, dove si è costruito di più, ed è innegabile che in questi ultimi 2 anni l'offerta del nuovo sia stata molto più alta al nord che al sud. Ci rimane pochissimo, forse riesco a far intervenire Anna Maria, ancora da Parma, infatti devo ancora confermare quello che dicevo prima. Anna Maria, riesce ad essere brevissima? Per sì, cortesia? Brevissima. Grazie. Dunque, io ho messo in vendita l'immobile 1 anno e mezzo fa, sì, a Verona, un immobile di pregio, perché mi considero un investitore puro. Benissimo. E volevo smobilizzare per comprare a Parma. Sì. Evidentemente sono capitata con l'agente immobiliare sbagliato, evidentemente perché non ho mai voluto dare l'esclusiva. Adesso mi trovo a non avere ancora venduto e nonostante ho cambiato agente abbia anche abbassato il prezzo. Infatti, Anna Maria, ma lei ha fretta di vendere questa casa? Lei diceva le smobilizzare, infatti, perché il tempo può essere una variabile cruciale. A questo punto non ho fretta e non ho bisogno, che la cosa più importante, pensavo di mettere a reddito l'immobile, un immobile di pregio, una casa indipendente in una gran bella città, peraltro in una gran bella città e una gran bella casa che ho ristrutturato io. Grazie Anna Maria, devo chiudere, ma abbiamo capito perfettamente. Lodigiani, in 10 secondi, che ricettina diamo ad Anna Maria? Ma diciamo che 10, 9, 8. No, sicuramente può provare a vendere dando l'esclusiva a un'agenzia, oppure può mettere a reddito. Sicuramente non dare, come dire, a più agenzie e muoversi in modo confuso. Ecco, ci vuole un rapporto serio col professionista che la segue. E questo è in alternativa, se proprio non vuole attivare un tipo di rapporto di questo tipo, ha già individuato la seconda alternativa, la seconda chance, che è quella di mettere a reddito. Magari arriverà anche qualche acquirente che invece vuole all'istante mettere le mani su questo immobile, riesce anche a risolvere abbastanza rapidamente questa trattativa. Torneremo su questo tema che è sempre molto bello. Grazie a Guido Lodigiani e Alessandro Ghisolfi per essere stati con noi, a Valeria Coffario e Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Peter Bescapena assistenza tecnica. Ci sentiamo domani, parliamo del crack Lehman Brothers, a che punto siamo per i risparmiatori che sono rimasti coinvolti, in attesa di parlare invece venerdì degli ex obbligazionisti, ex azionisti Alitalia. Buona giornata.